Tempo di Sport con Carlo Genta. Io vi conosco mascherini, ormai da 13 anni avete una voglia dannata di ricominciare a parlare di Conte, di ricominciare a parlare di giustizia sportiva, facendo finta che domani non inizi nemmeno il campionato, cosa che per fortuna accadrà. Lo faremo, ve lo prometto, più tardi, anche se io sinceramente non ne posso più, ma è una posizione personale. Vi invito anche a partecipare a 800 24 00 24, e non vi farò mancare nulla, comprese le parole di Abete e quelle di Conte nella sua arringa di ieri. Però secondo me oggi la notizia vera è un'altra, l'avete sentita anche prima nel giornale radio, ed è una notizia che mi colpisce moltissimo, cioè il texano con gli occhi di diamante che ha sempre sfidato il mondo depone le armi ai piedi dei suoi accusatori. Mi arrendo, dice Lance Armstrong. Io saluto e ringrazio Eugenio Capodacqua, inviato di Repubblica, che è per me la massima autorità possibile quando si tratta di fare questi discorsi, perché ha scelto di tuffarsi nella palude del doping di cui conosce purtroppo ogni galleria. Eugenio, buongiorno, grazie. Buongiorno a voi e grazie per i complimenti innanzitutto. Tutti sanno che è così, quindi non aggiungo nulla. Ha sfidato la morte, il ciclismo, le sue istituzioni, come fosse John Wayne, appunto, guardandola con quegli occhi impenetrabili, e adesso consegna le armi, dice: non mi difendo più, adesso lo vogliono nudo, soprattutto l'agenzia americana antidoping, che gli ha fatto una guerra spietata, lo vuole senza più quelle 7 maglie gialle. Diciamo che, per usare un vecchio proverbio, il diavolo fa le pentole ma mai i coperchi, no? Che sulle vittorie di Armstrong ci fosse qualcosa da ridire non è da oggi, che fosse altrettanto difficile raccogliere, racimolare prove decisive, testimonianze e non semplicemente voci è altrettanto chiaro, e questo spiega il fatto di come per tanti anni non si sia andati molto a fondo nella vicenda. E su questo non andare a fondo c'è stato anche, come dire, un elemento decisivo a mio modo di vedere, che è quello della trasformazione dello sport. Ormai lo sport di vertice è essenzialmente spettacolo e business, sono soldi, denaro. Il Tour de France è visto da miliardi di persone dal punto di vista televisivo, gira interessi miliardari. Un campione, fra virgolette, come Armstrong, che ha una storia passata, non a caso il suo primo tour vincente del 99, sì. Non ci dimentichiamo che nel 98 c'è stato il famoso caso Festina, sì. la famosa ammiraglia fermata alla frontiera franco-belga. La famosa fotografia sul New York Times con i corridori seduti per terra. Esattamente, i gendarmi che sono entrati negli alberghi delle squadre. E quindi ci fu all'epoca la proposta di alcuni politici addirittura di chiudere il ciclismo per un paio d'anni, tanto era alta ed evidente la contaminazione generale, e di ricominciare da capo, diciamo, 2 anni dopo. A questa proposta ovviamente si sono opposti gli organizzatori del tour, e a quel punto lì arriva un certo signor Armstrong, che, reduce appunto da una tristissima vicenda di tumore ai testicoli e al cervello, dalla quale era uscito, era secondo me l'uomo perfetto nel momento giusto. Sì. E aveva addosso, come dire, l'interesse dei media, perché non solo era riuscito a battere questo male, che è poi il male del secolo, ma era addirittura tornato ai vertici, perché prima di vincere il Tour del 99 si era piazzato molto bene, se non addirittura aveva vinto un paio di corse, sì, diciamo, di secondo piano. E chi conosce il ciclismo, le difficoltà e la fatica che impone, sa benissimo quale può essere il valore. Quindi certo, arrivava l'uomo giusto al momento giusto. Certo. È chiaro che a quel punto lì chiudere gli occhi è stato, come dire, conseguenziale. È stato conveniente, Eugenio, ed è dello stesso pensiero che ho fatto io questa mattina, adesso che lo vogliono chiudere nell'area 51 nel deserto del Nevada insieme ai marziani, no? Lance è stato difeso dalla politica con la P maiuscola, dall'establishment, se vogliamo, perché faceva comodo a tutti, faceva comodo a molti, faceva comodo alla potentissima Société de Tour de France. Adesso che non fa comodo più a nessuno, lui depone le armi, perché capisce che non può fare altrimenti. Sì, è così. Depone le armi anche perché a questo punto, il novero delle prove al suo carico è talmente pesante, il carico delle prove è talmente inconfutabile, che probabilmente sarebbe quasi inutile opporsi, ha capito a questo punto che sarebbe inutile opporsi, ci sono testimonianze, ci sono persino delle indagini fatte in Italia, perché lui si è servito per tanti anni della consulenza di un medico, Michele Ferrari, che diciamo, è stato coinvolto varie volte in vicende doping. E quindi indagando su questo medico sono arrivati anche a lui e credo che una buona parte o comunque una parte importante delle prove che sono in possesso dell'USADA in questo momento derivi anche proprio da questa inchiesta. Per esempio, ecco, una delle cose che io so è che addirittura i nostri investigatori sono riusciti ad appurare, a individuare l'ospedale presso il quale Armstrong faceva i test per controllarsi, no? È chiaro che se uno diciamo usa dei prodotti che alterano i propri valori ematici deve tenere i propri valori ematici sotto controllo, ma non può andare Lance Armstrong, il famoso vincitore di tour, al primo ospedale qualsiasi, certo, e dire fatemi un po' il panorama di quello che avevi, perché è chiaro che avrebbe comunque subito attirato l'attenzione. E quindi ecco la necessità di andare in un ospedale sotto falso nome, e questo per esempio è un piccolo particolare dell'inchiesta che hanno appurato gli italiani, in particolare i carabinieri del NAS di Firenze, insomma, sui quali proprio il processo a Ferrari e quindi ad Armstrong indirettamente. La cosa importante è che il procedimento, tu parlavi prima di protettorato politico, no? E mai come questa vicenda è proprio la prova evidente, cioè si evidenzia come appunto l'ingerenza, almeno questo io presumo, questa è una mia idea, una mia ipotesi, dei politici sia stata diciamo forte, perché queste prove che adesso sono in mano all'USADA le aveva lo stesso procuratore federale, il quale, e quindi se sono valide e forti, sì, e inconfutabili, perché ci sono testimonianze, ci sono tante cose, se sono valide e inconfutabili per la giustizia sportiva lo sarebbero state altrettanto anche per la giustizia ordinaria. Se non che cosa succede? Che una settimana prima di discutere su questa vicenda il procuratore generale, il procuratore federale chiede l'archiviazione, cioè l'accusa praticamente dice basta, non ci interessa più. A quel punto lì il processo penale si ferma e va avanti soltanto la parte diciamo civile, la parte diciamo amministrativa, sì, che è quella ancora in piedi. Sì. Però cosa succede? Che il procuratore federale, che la UADA si fa dare dalla giustizia ordinaria i documenti, e in base a quei documenti ecco che scatta la squalifica, che sarà molto probabilmente una squalifica a vita, e ovviamente con la squalifica la perdita di tutte le vittorie. Sì. Ora io non lo so cosa succederà dal punto di vista economico, perché chiaramente la vittoria vuol dire anche dei soldi, certamente, sono credo parecchie centinaia di migliaia di euro la somma prodotta dalla vittoria, per non parlare di tutto l'indotto, i contratti che aumentano, la pubblicità eccetera eccetera, e in teoria diciamo come si dice volgarmente a regola di bazzica dovrebbero essere restituiti questi soldi. E l'altro aspetto che ho notato è perché è drammatico secondo me per il ciclismo, è vedere che cosa succede depennando Armstrong dal palmarès di 7 Tour de France. Sì. Ebbene, è triste doverlo dire da appassionato del ciclismo, io sono un ciclista praticante anche tutt'oggi, quindi sì, lo dico veramente con il cuore esacerbato, però non c'è un corridore al secondo posto di queste edizioni del Tour, e parliamo del Tour che vanno dal 99 al 2005, sì, che non sia stato coinvolto in vicende doping. Faccio un esempio: nel 99 il secondo è Zülle, che fu coinvolto nello scandalo Festina, il quarto è Dufaux, francese, anche lui coinvolto nello scandalo Festina. Nel 2000 il secondo è Ulrich, coinvolto nella vicenda Puerto. Nel 2001 è sempre Ulrich e poi Benocchi, anche lui coinvolto. Poi c'è Ulrich nel 2003, c'è Rumsas nel 2002. Insomma, è allucinante vedere come se diciamo il ciclismo mondiale per correre appresso a questa immagine, lo spettacolo, i soldi, il denaro, il business, diciamo si sia ridotto in queste condizioni veramente misere. Sono impresentabili. Si è piegato a questa esigenza. Adesso cacci via un Armstrong, giustamente, perché l'hai pizzicato con le mani diciamo nel barattolo della marmellata, finalmente dopo tanto tempo, si può criticare la lunghezza, quello che uno vuole, però ci mette al suo posto gente che bene o male è come lui, o forse anche peggio di lui. Forse anche peggio di lui. Eugenio, ti chiedo un istante di pazienza perché ho il traffico, poi vorrei farti un'altra domanda che non riguarda Armstrong ma riguarda il ciclismo di oggi. Se vorrei chiederti se ti sembra qualcosa di più accettabile, mi risponderai dopo il traffico. A tempo di sport. Allora, Eugenio Capodacqua, abbiamo assistito a qualche volta anche insieme a ridicole conferenze stampa a vari giri d'Italia, da quello che aveva bevuto il tè a quell'altro che era andato dal dentista, a quell'altro che aveva mangiato la bistecca, eccetera eccetera eccetera. Ce ne hanno raccontate di tutti i colori e noi abbiamo dovuto far finta di credere e vendere quest'acqua fresca ai lettori o agli ascoltatori. Quest'estate abbiamo visto un marciatore che invece va lì e in lacrime dice: questo mi ha fatto stare un po' dalla sua parte, finalmente dice l'ho fatto come l'ho fatto, poi l'ho fatto da solo, lì non ci credo, ma questa è un'altra storia. Come siamo messi? In generale nel ciclismo o in generale nello sport? In generale nel ciclismo, poi vediamo lo sport. In generale nel ciclismo siamo messi non bene, a mio modo di vedere, anche se adesso è emerso uno strumento che ha una grandissima potenzialità, il cosiddetto passaporto biologico, sì, che consiste praticamente nel monitorare i valori ematici e anche ormonali degli atleti attraverso il tempo. È chiaro che in quel modo si ha una fotografia. Si sa che quei valori dal punto di vista fisiologico possono oscillare nell'ambito di una piccola forchetta, quando si trovano oscillazioni maggiori, ripetute, si ha la prova indiretta che c'è stata una qualche alterazione, perché o c'è la malattia o c'è il doping. Sì. Quindi lo strumento buono c'è. Il ciclismo ha il merito di averlo adottato per primo e anche in maniera molto, molto importante, perché sono stati pizzicati corridori anche importanti, tra cui l'attuale campione italiano di ciclismo Bellizzotti, il quale è stato preso, ha giustamente scontato la sua pena ed è ritornato, e diciamo che è il suo sacrosanto diritto ritornare e partecipare. Sì, ma se ti chiedo questo, ma non è un affare il doping in termini economici? Cioè mi beccano, mi faccio la mia squalifica, nel frattempo ho vinto le mie gare, le squalifiche tutto sommato sono accettabili soprattutto per corridori giovani, si fanno due conti. Sì, sì, sì. Ho capito, ho capito. In realtà avresti pure ragione se non considerassi il fatto che insieme con la squalifica bisogna restituire tutti i premi vinti. Quindi in pratica l'interesse, cioè voglio dire, cioè, hai anche un danno. Io metterei anche delle multe, diciamo, maggiori, perché chiaramente questa gente, per far cambiare questo indirizzo devi toccarla nel portafoglio, dove sono più sensibili, mi spiego. Sì, certo. Comunque dicevo, questo strumento, che è uno strumento validissimo e che ha portato dei risultati e sta portando anche dei risultati in altri sport, nell'atletica per esempio, tra l'altro si dice che appunto i valori di Schwarzer, ben prima del periodo in cui lui dice di essersi rivolto a questo come medico consigliere, erano, diciamo, sospetti, no? Quindi diciamo che lo strumento c'è, però il problema qual è? Che è gestito all'interno del mondo sportivo, perché la WADA, cioè l'Agenzia Mondiale Antidoping, che governa praticamente l'antidoping in tutto il mondo, è uno strumento, intanto è un organismo privato, sì, e questo già qualche punto interrogativo te lo fa dare, e poi è uno strumento governato dagli sportivi, cioè la maggior parte dei dirigenti della WADA sono dirigenti dello sport. Ora è chiaro che se nell'elenco dei prodotti vietati, per esempio, non figura la caffeina, per il semplice fatto che questa sostanza, che pure non è sicuramente delle peggiori dal punto di vista del doping, ma sicuramente è un prodotto dopante, sì, non viene inserita nell'elenco dei prodotti vietati semplicemente perché è contenuta in una bevanda del main sponsor delle Olimpiadi, se siamo a questo punto qui, è evidente che far gestire il controllo antidoping, sia pure con uno strumento buono come quello del passaporto, all'interno del mondo dello sport provoca degli scompensi, Naturale. Prova una non accettabilità. Ci vorrebbe qualche cosa al di fuori e completamente indipendente rispetto al mondo dello sport. Grazie Eugenio, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, un abbraccio a Eugenio Capodacqua. Ascoltatori ne ho tanti già, ne aspetto molti altri, 800 24 00 24, anche su Conte immagino, ma adesso stiamo parlando di questa vicenda di Armstrong, cosa che farà Luigi credo dalla provincia di Chieti e poi Roberto da Treviso sicuramente. Luigi, dica. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. stavo in macchina, ascoltavo la vostra trasmissione. Faccio i complimenti per l'argomento che state trattando. Io vado in bicicletta ormai da più di 20 anni, sì, come amatore, niente di particolare. Chi mi conosce sa benissimo che la vicenda di Armstrong ha destato più di qualche sospetto, e mi sono sempre scagliato contro di lui. Mi dispiace dalla vicenda umana, perché comunque è un atleta, una persona che comunque ha dato del suo. Andare in bicicletta non è semplice, però tutto l'entourage che c'aveva attorno. Senta, ma lei da amatore ha mai avuto la tentazione di prendere delle cose? Assolutamente che... assolutamente le risulta che qualcuno che fa, che fa le corse con lei invece questa tentazione ce l'abbia avuta? Purtroppo nel mondo amatoriale è forse lì il doping adesso. Bravo, è quello che penso pulito. Anch'io, è quello che penso sarà anch'io. Sarà quasi pulito il ciclismo, però l'amatore con la voglia di arrivare, di fare, è logico che ti viene con la tentazione, che è stupido a farlo, perché si va a vincere non con le proprie mani, ma con le mani degli altri. Ma si è stupidi per mille ragioni. Mi dispiace, Luigi, però dovevano metterci un freno molto prima. Anche i giornalisti che l'hanno difeso, perché vorrei vedere quali testate giornalistiche gli sono andati contro quando lui fa 7 giri di Francia. Nessuno. Lo hanno reso un dio. E tutto ciò va a discapito di chi fa il ciclismo in maniera onesta. Sì, va detto che non è mai stato trovato positivo a un controllo antidoping. Ma non ci possiamo prendere in giro. Uno che ha avuto quello che ha avuto Armstrong, e per allora, l'amore di Dio... Luigi, guardi, Armstrong presentava al via di ogni Tour de France, sa che bisogna presentare, lo saprà benissimo, la cartella clinica, no? Prima del via ogni corridore deve presentare una cartella clinica. Arrivavano lì con le cartellette, Armstrong arrivava con l'enciclopedia. Perché? Perché aveva avuto questo tipo di malattie, quindi c'erano dei farmaci che doveva prendere, eccetera eccetera. Non so quali prodotti fossero, nemmeno mi interessa sinceramente, però il discorso è: possiamo aver avuto tutti il sospetto, ma Armstrong è mai stato trovato positivo a un controllo antidoping a una corsa? Pantani è stato mai trovato positivo, però tutti i giornalisti d'Italia lo hanno attaccato. Povero Pantani è morto grazie anche ai giornalisti. Bah, io su questo qualche dubbio ce l'ho. Pantani, quando fu trovato con l'emastocchito alto a Madonna di Campiglio, sì, non c'è stato, tranne che tutto sport, con sì, Xavier Iacobelli, tutti i giornalisti lo hanno attaccato, di dire la verità. Sì. Tutti quanti, soltanto Xavier Iacobelli lo ha difeso. Sì, era difficile comunque difendere un corridore che è stato trovato positivo alla vigilia della vittoria di un grande giro. Era onestamente difficile difenderlo, anche se in quell'epoca l'EPO era sostanza comune, cioè tutti la usavano, e questo nessuno me lo toglie dalla testa, quelli pizzicati e quelli non pizzicati. Grazie Luigi, facciamo parlare a Roberto. Buongiorno, buongiorno. Grazie per averci richiamato. Lei. E adesso cosa facciamo? Non so, me lo dica lei. Tanto quest'anno lei ha visto, no? Cosa ho visto? Ha visto per caso spettatori meno alla TV? Pensa che questo lasci a casa qualcuno dal non andare a vedere le corse? No, la media di quest'anno al Tour de France è stata più bassa di quando ha vinto Armstrong? Non so, devo andarla a vedere, non la ricordo, noto però medie più basse, quello sì, noto però meno imprese miracolose, Roberto. Sì, però, secondo me c'è uno strumento antidoping molto potente che non viene adoperato. Cioè? Il telecomando. Ah, sì. Beh, ma sai, è un effetto un po' perverso, io ci ho ragionato sopra, è un effetto un po' perverso per cui sono in molti, soprattutto magari adesso no, però soprattutto all'epoca del doping selvaggio erano in molti a voler andare a vedere un po' queste bestie feroci che correvano sulla strada, questi presunti dopati. Credo ci fosse questo effetto un po' perverso che abbia in qualche modo aiutato a, insomma, a tener vivo l'interesse del ciclismo, ripeto, con pura perversione. Io oggi però, in realtà, Roberto, imprese meno miracolose di quanto non ne vedessi alla fine negli anni 90, alla fine degli anni 90, insomma, ne vedo, al di là di tutto, e al di là di quello che si può fare, al di là del fatto che c'è un passaporto biologico, al di là del fatto che imbrogliare è un pochino più complicato, però non mi sembra più di vedere certe cose e certe imprese ai limiti del credibile. Giuseppe da Pavia. Pronto, buongiorno. A lei. Due considerazioni veloci su sì. una prima su Armstrong. Mi chiedo per quale motivo non si dia mano al portafoglio per queste persone che scippano queste vittorie, nel senso che l'indotto che si è fatto Armstrong sì. in questi anni, secondo me, è molto alto. Sì, ma è cosa che si fa, sentiva prima Eugenio sì, Capodacqua, sì, no? Sì, io lo sentivo, però mi dico, gli sponsor di Armstrong o di qualsiasi altro ciclista che ruba, non può fare una denuncia per qualsiasi cosa, perché tu hai frodato, hai dato una brutta immagine della mia società che ti sponsorizza e che ti riempie di soldi, e quindi insomma toccare il portafoglio di questa gente secondo me è meglio, anche perché mi chiedo ad Armstrong, sì, può dargli un po' fastidio, togliergli 7 Tour de France, però alla fine magari si ritrova 20 milioni di euro in banca. Ho capito, però gli viene comunque bella. Sì, però la vita è bellissima, ma gli viene distrutto quello che ha fatto in tutta la carriera, disintegrato come figura e come personaggio. Poi il fatto di questo che lei dice a proposito degli sponsor, mi pare siano questioni private degli sponsor, no? Io credo che non ci sia nessuna legge che vieta ad uno sponsor eventualmente di prendersi una rivalsa, o magari lo sponsor valuta, sempre per questo effetto perverso, che tutto sommato l'immagine di Armstrong gli ha prodotto dei vantaggi e dunque l'interesse era per due, o no? Sì, ha perfettamente ragione. Così come l'interesse era quando Armstrong era personaggio e vinceva i tour e sfidava il mondo, eccetera, eccetera, l'interesse era quello di tenerlo in bicicletta, non di strapparlo giù e buttarlo in un fosso, come è stato fatto adesso. È chiaro che adesso Armstrong è stato un grande personaggio dello sport che non serve più a nessuno, perché la triste verità è questa. Dunque conveniva a molti, e non solo a lui, mantenerlo in bicicletta. Sentiamo anche Daniele, provincia di Pavia, e poi ci fermiamo per la borsa, e poi vi prometto Antonio Conte. Daniele, non che l'argomento sia più interessante, però è dovuto. Dica. Buongiorno. No, io volevo intervenire ancora a proposito di Armstrong, sì, che è una figura che mi ha sempre colpito profondamente per la sua storia. Quello che io trovo in questo momento, al di là di come la si pensi, piuttosto ingiusto è che gli si vogliono togliere le 7 vittorie nonostante non sia mai stato trovato positivo, non abbia mai fallito un test antidoping. Ecco, questo lo trovo quantomeno discutibile. Ma infatti Lucille ha già discusso, no? Lucille ha già discusso dicendo che aspettiamo un attimo, perché c'è l'agenzia americana antidoping che ha detto strappiamogli subito di dosso quelle magliette e magari rinchiudiamolo, come dicevo prima scherzando, nell'area 51 dove ci sono gli alieni nel deserto del Nevada, mentre Lucille ha detto questo: secondo le regole dell'Agenzia Mondiale Antidoping, UCI, che è la Federazione Internazionale del Ciclismo, in assenza di un processo devono essere presentati ad Armstrong, all'AMA e a noi delle decisioni motivate, e noi le aspettiamo, perché non basta che arrivi l'Agenzia Americana Antidoping a dire va bene, adesso ha deposto le armi, spogliamolo e rinchiudiamolo. Non è così che si fa, e non si farà così nemmeno per Armstrong. Ci fermiamo per la borsa e subito dopo vi faccio sentire cosa ha detto Giancarlo Abete oggi. A tempo di sport. Mi dicono che ho detto una cosa falsa su Pantani ed in parte è vero, non è vero che era stato trovato positivo all'EPO, ma se non è zuppa e pan bagnato erano i valori di ematocrito che erano fuori norma per Marco Pantani, che io continuo a pensare essere stato vittima di un agguato da parte dello stesso sistema quel giorno a Madonna di Campiglio, e quel giorno finì la sua carriera. Dunque però adesso voglio farvi sentire, perché lo state aspettando, il presidente federale Giancarlo Abete, che ha parlato oggi così. Chiedo a tutti quanti, nessuno escluso, di dare luogo a una dimensione rispettosa dei ruoli del mondo arbitrale, del mondo della giustizia sportiva, ponendo e proponendo delle novità, delle modifiche se necessario, ma rispettando quelli che sono i ruoli e le funzioni, perché questo è fondamentale, perché il nostro sport mantenga prima ancora che una dimensione di credibilità al suo interno, una dimensione di credibilità a livello sia internazionale che nel confronti del sistema paese. Alimentare le peggiori faziosità non è utile né al sistema paese né al sistema calcio. Dobbiamo essere tutti quanti giustamente tifosi, ma giustamente anche responsabili di quello che facciamo. Non è che a secondo che un giudice ci ha dato ragione o ci ha dato torto, va bene o va male la giustizia sportiva. È la funzione della giustizia sportiva che va salvaguardata. E magari va anche riformata la giustizia sportiva. Abete arriva il giorno dopo Petrucci, che più o meno aveva detto le stesse cose. Paolo Bargigia, che ho visto fino a pochi secondi fa sugli schermi del TGCom 24 con una giacca marrone a quadri molto trendy. Sì, anche lo Studio Sport, sì, comunque. Sì. Giacca era quella, era sempre quella. Vero? Mi è piaciuta, adesso però l'ho tolta. L'hai tolta perché aveva un caldo cane ancora. Sì, esatto. E allora ti chiedo di commentare queste parole di Abete, che fanno eco a quelle di Petrucci. Il richiamo al rispetto dei ruoli è istituzionale ed ovviamente ci sta, e non potevamo non aspettarcelo. Laddove parla e apre alla possibilità di cambiamento delle regole, si capisce che secondo me il pensiero va alle regole della giustizia sportiva, perché in effetti, al di là di dove uno stia, per simpatia o meno, per convinzione, è chiaro che c'è uno sbilanciamento, e qui secondo me hanno ragione un po' tutti gli indagati, per usare un termine più da processo penale, a lamentarsi, no? Soprattutto sì. Le difese per sì. Quanto riguarda la mancanza di tempo, spazio e la possibilità di vedere le carte, e io credo che il riferimento fosse quello e verso quello che andrà sostanzialmente. Certo, d'altra parte sappiamo che un processo in cui vige l'inversione dell'onere della prova, cioè arriva lì l'accusato e il pentito e dice certe cose, valgono quelle e tu devi dimostrare che non è vero. Mi sembra un processo un po' draconiano, che poteva andare bene se si tratta di, che ne so, del tentativo di simulazione. Se si comincia a parlare, e da anni si comincia a parlare di molte altre storie, le mani su quel tipo di processo bisogna pur metterle, no Paolo? Sì, no, ma quello sicuramente. Purtroppo nel nostro paese non è vecchio solo il sistema calcio e solo la giustizia sportiva, perché se tu ben ci pensi, anche a livello di reati fiscali praticamente c'è questa prova induttiva. La Guardia di Finanza arriva e ti dice: secondo noi lei imprenditore, per il volume di affari che ha evaso in un anno questa cifra, sarei dimostrarci che non è vero. E invece in teoria non dovrebbe essere così, per cui era per dirti che sì. Siamo un po' un paesotto arretrato, e vabbè, il calcio, che è l'espressione più visibile e più popolare, anche lì si deve assolutamente riformare, adeguare, ma credo che lo farà, però credo che dovremo ancora vederne delle belle, sentirne delle belle, in riferimento a quello che tu dicevi nel promo, sulle dichiarazioni di Conte e su tutto quello che gli succederà intorno, perché mica è finita qua. No, non è finita qua per niente, mio caro Paolo. Senti, invece, sapendo che non è finita qua e sapendo che ne vedremo delle altre, e delle belle o delle brutte, c'è qualcuno che raggiunge la sufficienza in questo mercato, al di là della Juventus, che prende secondo me un voto alto, e della Fiorentina? Sì, la Juventus prende un voto alto, però secondo me sta ricerca del top player in attacco sta diventando un po' qualche mezzo punto lo sta facendo perdere la Juve, perché sei la Juve e non devi, secondo me, dilazionare così tanti tempi, perdere tempo dietro ad obiettivi che, pur essendo tu la Juve, poi li manchi perché ti scelgono altre squadre e perdi di prestigio, cioè il tempo perso dietro Van Persie, tanto per dirti. Cioè non lo devi perdere, perché o su un giocatore vai deciso, sì, oppure non fai neanche le trattative, o comunque le fai e le chiudi in fretta e non le tieni aperte. Adesso anche tutte quelle settimane che passano dietro a Llorente, onestamente, secondo me, rischiano di togliere qualche mezzo punto alla Juve, però sono d'accordo, scusa, che ha fatto un buon mercato. Ti cambia la vita Llorente? Secondo me no. Allora. Secondo me no, però so che c'è la volontà forte di Antonio Conte di avere una faccia nuova lì davanti, che abbia determinate caratteristiche, perché né Matri né Quagliarella un po' inspiegabilmente convincono l'allenatore. Sì. E quindi, siccome Antonio Conte ha molto molto potere dentro la Juve, si è visto non solo dal punto di vista calcistico, ma ha dei bonus, ha una riconoscenza per quello che ha vinto da parte della proprietà incredibile, perché anche in questa vicenda del calcio scommesse, sai che dentro la Juve c'era un'ala dirigenziale che non era così vicina ad Antonio Conte, e vabbè, adesso è inutile allargare il campo, poi diventiamo troppo tecnici, però tipo l'avvocato Briamonte, che poi è uscito dal collegio difensivo e sì, che era uno dei primi nella consiglio d'amministrazione, credo non amasse molto certe cose, però a parte, no, secondo me invece il voto molto alto lo merita la Roma. Sì, certo. Assolutamente, ma soprattutto per il coraggio e per la coerenza di un progetto nell'andare a prendere giocatori molto giovani. Sì, sicuro. E nell'investirci il giusto, e vedrai che li faranno anche giocare. Quindi tanta roba, e secondo me si è messa molto in corsa e ha guadagnato posizioni anche l'Inter. Ah. Perché alla fine, guarda, è discutibile o meno Cassano Pazzini, però agli atti c'è che Pazzini con Stramaccioni, e non chiedermi perché, non avrebbe mai giocato. Ma io almeno hanno preso uno. Io te lo chiederei invece perché. Ma io non so cosa c'è stato, o se c'è stato qualcosa a livello personale. Pazzini oggi diceva: io non ho capito le scelte dell'Inter. Però Pazzini e Giulio Cesar sono stati due giocatori che Stramaccioni, una volta investito della fiducia, ha chiesto di cedere se possibile. Quindi comunque arriva Cassano, che in qualche modo è discutibile, ma un po' di partite le farà. E poi arrivano anche 7 milioni e mezzo di euro. Poi la scelta di Gargano, guarda, Gargano è sottovalutato, perché è piccolo e brutto, però guarda che è un giocatore che corre per tre, secondo me è un buon acquisto. Sì. Come la cosa di Alvaro Pereira, che è arrivato poco prima dell'una a Milano. Sì. Questa mattina. E poi sai, se va ad Ama, con le cessioni di Giulio Cesar, che anche lui è rientrato a Milano dopo aver ascoltato l'offerta del Queen's Park Rangers, adesso deve decidere, sì, e la cessione di Maicon, l'Inter fa un risparmio sul monte ingaggi di 40 milioni di euro. Ah sì, questo è sicuro. Secondo me comunque piano piano, non decisamente, sta anche ringiovanendo la squadra. E quindi anche metto l'Inter tra le squadre che alla fine hanno fatto bene, ecco. Ma io metto io sono affascinato dalla Roma, ti dico Roma, Juve, Fiorentina e Inter. E il Milan? No, il Milan. No, lo so, Milan lo so, però no, dicono che Galliani sia lì con un piede sull'aereo per andare a prendere Kakà. Io non ci credo neanche se lo vedo. Ma guarda Carlo, stiamo ai fatti, lunedì, te lo dico perché ci ho parlato, ci sarà un incontro tra Ernesto Bronzetti e Florentino Perez. Sì. Ho sentito questa mattina Bronzetti, c'è la conferma di questo incontro e c'è questo tentativo del Milan, rimettendo proprio Bronzetti, no? Vecchio consulente, grande amico di Florentino Perez, di provare ad aprire questa cosa. Ma anche se dovesse arrivare a Kakà, per me il voto non vale, non assolutamente cambia. Potrebbe non anche cambia. Scendere, sai? No, scendere perché no. Andare con tutti i giocatori che ci sono in giro per il mondo, ah, andare a prendere uno per far parlare i giornali un mese, che comunque poi è tre anni che non dà segnali di essere più un top player, serve veramente a poco, no? Ma non lo so, può essere una mossa un po' demagogica, un po' nostalgica, un po' come vuoi tu, ma soprattutto per il Milan deve essere una mossa conveniente, perché il Milan la sensazione non abbia un euro da versare in prospettiva di un top player, poi avrebbe bisogno di molte altre cose, Paolo. No, ma poi sai, però ci sono tanti giocatori giovani, bravi, no? Cioè, per dirti che noi, che i dirigenti del nostro calcio non conoscono, perché eccetto pochi come Sabatini della Roma, quelli dell'Udinese, Perinetti a Palermo, sono molto miopi, cioè non hanno voglia, non hanno l'umiltà, no? Di andare a cercare. Adesso vedrai che il Porto, al posto di Alvaro Pereira, prenderà questo giocatore del Nancy che si chiama Aidara, che nessuno conosce, è un 92, che credo non paghino più di 3 milioni, 3 milioni e mezzo. Poi magari questo fra un anno o due diventa un grande esterno, no? Cioè, però bisogna conoscerli i giocatori. E il Milan queste scelte non le fa, cioè tu dimmi la mossa anche di andare a provare a fare il provino a Zé Eduardo del Genoa, sì. Una roba da Borgo Rosso Football Club, capisci? Sì, un po' sì. E quindi un voto, la sufficienza al Milan non riesce a farmela dare. No, ma penso che nessuno no. voglia, nessuno voglia darla la sufficienza al Milan. Gliela do per la fermezza, la coerenza, anche se potevano gestirla in modo più lineare, di essere rientrati e avendo il coraggio di cedere i due, Ibra e Thiago Silva, ecco, almeno non si sono massacrati le finanze, sì. Questo ci sta. No, si sono massacrati magari le prospettive di vittoria, ma questa è un'altra storia. Quello un po' sì, quello un po' sicuramente. Ciao Paolo, grazie. Ciao, buon lavoro. Sempre un piacere, grazie a Paolo Bargigia. Ci fermiamo per il traffico e poi Aldo, Alessandro, Marcello, 800-24-00-24, numero verde. A tempo di sport. Allora, Conte, poi domani si comincia a giocare finalmente. Conte! Che io parlo ai miei calciatori e rassicuro tutti in virtù di un pareggio. Questa è stata l'accusa infamante che ha portato Antonio Conte al calcio scommesse, ad essere lo spot di questo calcio scommesse. Io che non ho mai scommesso. E uno, Aldo, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno dottor Genta. Senta, io mi trovo praticamente d'accordo con tutto quello che dice Conte, ma non perché sono juventino, perché sono arrivato all'età di 58 anni, naturalmente sono in grado di capire se c'è qualche cosa di sporco o no. Sì. Il problema è che è capitato anche a me, non naturalmente in materia sportiva, ma in materia magari di vita normale, io sono un artigiano, di avere a che fare con istituti del genere. Ecco, al di là della colpevolezza o no, tengo a precisare che è quasi impossibile difendersi quando vieni attaccato da questi istituti. Allora, io credo che a questo punto qua c'è qualcosa che non funziona più, perché è chiaro che quando uno ti dice guarda che tu sei colpevole e quell'altro dice vabbè io ti credo, a questo punto è fatta. Quindi come si fa nella persona del presidente Abete, voglio dire, a sostenere una situazione del simile quando agli occhi di tutti, anche voi giornalisti oggi, siete straconvinti che Conte non c'entra praticamente nulla. Ora, ha ragione o non ha ragione Conte di arrabbiarsi, per non dire cose più cattive? No, non è questione di ha ragione o non ha ragione Conte di arrabbiarsi. La questione è che le regole attraverso le quali viene amministrata la giustizia sportiva sono queste e secondo me sono sbagliate. È una giustizia sportiva che è nata per dirimere controversie sportive, per l'appunto, sono ormai molti anni che si trova a dirimere controversie pseudopenali, quindi e quindi si regge su un codice, su delle procedure che non sono semplicemente adatte per valutare in maniera congrua da un punto di vista giuridico queste situazioni. Poi, ma perché è così? Altro Conte. Non interessa quando si parla di patteggiamento. Il patteggiamento è un ricatto. Che viene fatto purtroppo dai nostri stessi avvocati. Il patteggiamento è un ricatto. Bello e buono, da questa giustizia. È una vergogna. Alessandro da Milano. Buongiorno dottor Genta. Buongiorno. Ma allora se lui dice, mi ricollego all'ultima frase, se lui dice che il patteggiamento è un ricatto, questo mi fa pensare che sia stato ricattato anche sotto altri aspetti. Beh, io credo che sia stato, tra virgolette, indotto, oppure costretto a patteggiare perché gli hanno detto: ascolta, patteggiamo, stai 3 mesi senza panchina, paghiamo i soldi che dobbiamo pagare e la chiudiamo lì. Ma lui là, ma d'altra parte l'ha sempre detto. Ma quando uno patteggia è perché sa di avere qualcosa di illegale fatto, di aver fatto qualcosa di illegale. Ma io poi mi volevo... Sono così convinto, Alessandro, convinto, lo si può fare anche per ragioni di convenienza, tanto che lo stesso Conte ha detto: il mio unico vero errore è stato quello di accettare questo, quanto mi hanno proposto, cioè di patteggiare quando mi sono sempre sentito innocente. Allora, era una questione di convenienza. E allora un uomo da 3 soldi, come dicono a Milano, cioè, voglio dire. Ma poi un'altra cosa volevo sottolineare, poi la lascio perché ci sono altri ascoltatori. A parte che, senza entrare nel merito, ha usato toni e modi assolutamente fuori luogo. Ma poi c'è una frase molto molto strana quando lui dice: questi giudici sono giudici tifosi. Tifosi di chi e di che cosa? Lui lo deve dire. Guardi, appunto, bisogna chiederlo a lui. Io alla teoria del complottismo contro la Juventus non ci credo. Non ci credo perché mi sembra bizzarro in un paese in cui di cose bizzarre purtroppo ne abbiamo viste molte, però non ci credo. Credo piuttosto ad una giustizia sportiva che si trovi a dover fare certe guerre, a condurre certe battaglie legali con strumenti inadeguati. Questo lo ripeto per l'ennesima volta, perché non puoi andare in trincea con il fucile che spara turaccioli. Ci vuole una riforma, ci vorrebbe una riforma profonda e adeguata a questi tempi del sistema giustizia sportiva. Poi d'altra parte non si può neanche dar torto a chi, come Abete, dice: vabbè, quando vi conviene vi dà ragione, allora giustizia sportiva va bene, quando invece vi dà contro, allora giustizia sportiva fa schifo. No, mettiamoci d'accordo, non fa schifo, semplicemente gli strumenti di cui dispone sono inadeguati per questo tipo di problemi. Ancora Conte. In 5 anni ho vinto 3 scudetti, uno scudetto, ho fatto 2 promozioni. Sono antipatico perché vinco, non è un problema mio. Io faccio il mio lavoro, lo faccio al massimo, chiedendo il massimo prima a me e poi ai calciatori e alla società. Do fastidio, non è un problema mio. Marcello. Buongiorno, dottor Genta. Salve. Sempre ovviamente all'aspetto Conte, io volevo aggiungere una cosa. Io sono d'accordo sull'ultima conclusione sua, commento del ascoltatore precedente. La giustizia sportiva non è in linea attualmente con i problemi che nel frattempo sono sorti da quando è stata formulata all'applicazione. Però c'è un altro aspetto che secondo me è importante. Come sempre le leggi vanno interpretate da parte dei giudici. Io ho letto le 13 pagine della sentenza che sono state pubblicate sui giornali, le ho lette ovviamente in internet, e mi hanno fatto paura 2 aspetti. Uno, quando i giudici nel giudicare Conte dicono tutto sommato si tratta di sanzioni non penali che riguardano altri aspetti e pertanto l'obbligo di avere da parte del giudice in parità accusa e difesa viene a mancare, e questo è una cosa assolutamente nella patria del diritto fuori dal mondo. Ma il secondo aspetto è ancora peggio, quello di cui si discute, no? Se ti accusano tu devi dimostrare che l'accusa è infondata. Non stiamo scherzando, siamo a uno dei principi su cui si basa la giustizia sportiva, ma mica dal caso Conte. Certo, dottor Genta, ma io dico l'altro aspetto che voglio significarle è questo. Nell'applicazione poi pratica si dice che quando è intervenuto anche l'avvocato Buongiorno, eccetera, eccetera, la Costituzione e compagnia, sono tutte cose, perché tutto sommato si tratta non di un penale, ma di una partecipazione ad una società, neanche sportiva, una società come se fosse una bocciofila, senza tener conto che purtroppo una squalifica o anche la solo immagine di squalifica a livello internazionale oggi per un uomo come Conte può voler dire un danno incalcolabile. Allora io dico, applichiamo le leggi, benissimo, ma che non ci sia la possibilità di difenderci è già grave, ma che poi tu dici che addirittura non si può difendere perché tutto sommato riguarda come se la Juventus fosse una bocciofila, beh, veramente. Ma no, non è questione, che, ma no, non è questione di bocciofilo di Juventus, perché sono regole che valgono per tutti. Non mi faccio ripetere quanto detto prima da Abete, le regole su cui si basa il procedimento sono queste, e ripeto, sono fatte per altre questioni, non sono fatte per questioni di questo tipo. E dunque si arriva lì e si tirano i bussolotti. È credibile questo test? È credibile fino a che punto? State a smontare quell'accusa? Io continuo a pensare una cosa che ho detto molte volte. Non posso credere, io personalmente non posso credere, non riesco a credere, e probabilmente non voglio neanche farlo, perché altrimenti dovrei pensare che si fa così in maniera del tutto normale, che un allenatore entri in uno spogliatoio e davanti a tutta la rosa, i magazzinieri, i massaggiatori, i ragazzini, i raccattapalle, dice: guardate che oggi la partita è aggiustata, quindi si gioca in un certo modo. Se uno agisce così, vuol dire che tutti agiscono così e che questa è la pratica comune. Quindi è questo che per me è fuori da ogni logica, ed è in questo che io tendo a credere ad Antonio Conte. Sentiamo ancora un pezzo della sua conferenza stampa e poi Vincenzo della provincia di Matera, e poi da domani basta. Da domani basta. E dico un'altra cosa ai miei colleghi, ai calciatori: oggi è successo a me e a tanti altri, domani può accadere a loro. Non mettiamo la testa sotto la sabbia, perché sì, tanto che è successo a lui o è successo a loro, a quelli che sono stati deferiti e incolpati. Può succedere a tutti. E aprite gli occhi. Da domani si torna a parlare di pallone con le conferenze stampa e le banalità conseguenziali. Vincenzo, provincia di Matera. Buongiorno, sono Vincenzo. Buongiorno, dottore, Vincenzo, per la trasmissione. Grazie. Però io premetto che sono juventino. Sì. Però cerchiamo per dire, non mi sta piacendo l'atteggiamento, non ti conti, perché si capisce la rabbia di una persona che comunque viene condannata giustamente e ingiustamente, anche se l'unica cosa che non ritrovo giusto è che l'ho messa a denuncia perché non venga data anche ai calciatori che erano in quello spogliatoio, se proprio si deve dare l'ho messa a denuncia. Sì. Però un po' come juventino mi dispiace di come la Juve, dopo anni di sacrifici per farci veramente un'immagine, si attraversando sia la faccenda ridicola, secondo me, dei 28-30 scudetti. Cioè, sì. Io come juventino posso dire che me ne sento 30, però il mio presidente, cioè, quando facendo parte di una federazione, deve accettare che sono 28, e questo l'abbiamo fatto nel 2006. Bravo. E ogni volta, quando noi stiamo per rialzarci, siamo noi stessi che ci ributtiamo per terra. Bravo. Cioè, ponendo il fianco a questo in maniera abbastanza gratuita e demagogica, sì, infatti sto dicendo, cioè, ogni volta facciamo questo autogol, perché io onestamente questa posizione di Agnelli non la capisco, del dottor Agnelli. Sì. Per quello che riguarda invece Conte, io capisco la sua difesa, capisco tutto, anche l'altro non capisco lo schieramento della Juve, cioè, nel senso che altro, secondo me anche in quel caso stanno danneggiando Conte, perché ne stanno facendo una questione di una crociata. E per quello che riguarda invece il patteggiamento, là vedo della leggerezza da parte degli avvocati che hanno affiancato Conte in questa decisione. Sì, questo anch'io. Perché se hanno accettato la decisione dei 4 mesi, dei 3 mesi, cioè, hanno ritenuto che fosse una cosa congrua, e invece hanno sbagliato i conti. Su questo, guarda Vincenzo, sono d'accordo con lei su praticamente tutta la linea, quindi a parte che non ho tempo, ma non mi sento nemmeno di replicare. Ci sentiamo domani dalle 5 alle 6. Domani comincia il campionato con il primo anticipo Fiorentina Udinese alle 18. Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleone in regia. Ciao a tutti.